6 ottobre, da Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Il giornalino di Gian Burrasca. Di Vamba. 6 ottobre. Sono 2 settimane che non ho più scritto una parola nel mio giornale, perché mi sono ammalato da quel giorno famoso che fui per affogare e che scappai dal letto mentre sudavo. Collalto è venuto su a vedermi 2 volte al giorno ed è stato così buono con me che quasi quasi sento rimorso di averlo fatto spaventare quella sera. Quanto tempo mi ci vorrà per guarire? Stamani sentivo Ada e Virginia che parlavano insieme nel corridoio. Come naturale mi sono messo ad ascoltare quello che dicevano. Pare che ci sarà niente meno che una festa da ballo in casa nostra. Virginia diceva che era contentissima che io sia a letto, così si sentiva più tranquilla ed era sicura della riuscita della festa. Essa spera che io debba rimanere in camera 1 mese intero. Non so capire perché le sorelle maggiori non vogliano bene ai fratelli più piccoli. Ed io, invece, sono così buono con Virginia. Quando sto bene, vado anche 2 volte al giorno alla posta a prenderle e ad impostarle le lettere. Qualche volta, non dico, ne avrò perduta qualcuna, ma ella non l'ha mai saputo e non ha nessuna ragione di avercela con me. Oggi mi sentivo così bene che mi è venuta la voglia di levarmi. Verso le 3 ho sentito venire su per le scale Caterina che mi portava la merenda. Sono sgusciato dal letto, mi sono nascosto dietro l'uscio di camera, tutto imbacuccato in uno sciallone nero della mamma, e mentre la cameriera stava per entrare, le sono saltato addosso, abbaiando come un cane. Che credi che abbia fatto quella stupida? Dalla paura ha lasciato cascare in terra il vassoio che reggeva con tutte e 2 le mani. Che peccato! Il bricco di porcellana celeste è andato in 1000 pezzi. Il caffè e latte si è rovesciato sul tappetino che la mamma mi aveva comprato ieri e quella sciocca ha cominciato a urlare così forte che il babbo, la mamma, le mie sorelle, la cuoca e Giovanni sono corsi su tutti spaventati per vedere quello che era successo. Ci può essere una ragazza più oca di quella? Al solito io sono stato gridato, ma appena sono guarito voglio scappare da questa casa e andare lontano lontano, così impareranno a trattare i ragazzi come si deve. Fine del 6 ottobre.